Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Le ultime puntate di Salva Danaio prima del Natale continuano ad essere all'insegna della gastronomia, sì, un tema nuovo nel quale effettivamente il nostro contenitore della finanza si cimenta, e dopo esserci occupati di ristorazione lunedì scorso, oggi andiamo al vino. La disponibilità dei vini di qualità in Italia è cresciuta enormemente, oggi si possono trovare ottime bottiglie anche a prezzi non proibitivi. L'importante è leggere l'etichetta, fare attenzione alla provenienza, e certamente non ci faremo mancare, nonostante il Natale di sacrifici, per molti degli ottimi prodotti sulla nostra tavola in occasione di Natale e Capodanno. Anzi, è abbastanza probabile, se non certo, che molti di voi abbiano scelto un buon vino come regalo di Natale da fare ai propri cari o ai propri amici, e magari molti di voi e molti di noi lo avranno ricevuto. Allora, raccontatecelo se vorrete, che scelta avete fatto, che vino avete deciso di regalare o che vino vi è stato regalato, e quando lo scegliete, che cosa vi induce alla scelta. Secondo il collega Nicola Dante Basile sul Sole 24 Ore di questa mattina, a 5 euro si entra già in una fascia di prodotti interessanti, entro i 10 se ne trovano anche di grande reputazione. Sono tutte informazioni che tra l'altro oggi possiamo trovare con il Sole 24 Ore, sul Sole 24 Ore, grazie all'ultima delle guide low cost, la guida low cost di qualità. L'ultimo numero, in edicola oggi, è dedicato proprio ai vini, e anche questo numero è coordinato dal nostro gastronauta Davide Paolini, giornalista e curatore della guida. Davide è qui con noi anche questa mattina. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ultime puntate dunque prima del Natale, come dicevamo con Salva Danaio ci stiamo cimentando in questo tema che abbiamo visto tra l'altro appassionato lunedì scorso molti ascoltatori. Peraltro, magari lo possiamo anche ricordare, Davide, lunedì ci eravamo lasciati con la considerazione, la riflessione relativa al fatto se fosse il caso, per spendere meno al ristorante, portarsi il vino da casa, ma non mi ricordo a che conclusione eravamo giunti. Eravamo giunti che era possibile, perché molti ristoranti accettano ormai che uno si possa portare una bottiglia da casa ricorrendo a quel diritto di tappo, che significa pagare un quid al ristoratore perché lo apre, lo serve ed altro, ma è evidente che portare il vino da casa, in questo caso vini di grande qualità, magari che sono stati regalati piuttosto che lasciarli ammuffire magari da qualche parte, e quindi aprirli magari anche assieme a degli amici durante a una bella tavola. Quindi questo poteva essere una soluzione. L'altra soluzione, abbiamo detto, è anche quella: cercate ristoranti con vino a calice, perché alla fine spenderete molto meno e berrete più varietà di vini. Insieme a Davide questa mattina avremo anche le cantine, produttori, Riccardo Pasqua, amministratore dell'azienda Pasqua di Verona, Marco Gallone, amministratore delegato di Feudi di San Gregorio, e Andrea Muccioli invece, responsabile della comunità di San Patrignano, dove si produce un vino piuttosto buono che sta riscuotendo anche molto consenso da parte della critica di settore. Come vi dicevo, avrete l'opportunità di interagire con noi. Aiutatemi stamattina, perché non sono una conoscitrice dell'argomento, per cui ho bisogno di tutto il vostro supporto per rivolgere, se vorrete, delle domande intelligenti ai nostri interlocutori. Il numero è sempre lo stesso, è l'800240024, ma ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Come promesso, anche un'occhiata al mercato finanziario. Qua la borsa stamattina è piuttosto negativa, e gli indici stanno perdendo un punto percentuale abbondante. Avevano perso a metà mattinata anche 2,5 punti, come è accaduto a Francoforte. Adesso stanno limitando le perdite, ma abbiamo comunque il segno meno ovunque: Parigi meno 1,62, Francoforte meno 1,31, Londra meno 1,18, Milano meno 1,63%. Sull'S&P MIB i temi sono sempre quelli: la paura per la recessione in arrivo, numerosi settori che hanno bisogno di sostegno pubblico, è il caso dell'auto, e nonostante il sostegno arrivato venerdì con il piano varato dall'amministrazione Bush, si ritiene ancora ampiamente insufficiente. È arrivata stamattina anche la batosta della situazione di Toyota in Giappone, che ha fatto sapere di doversi trovare ad affrontare una situazione di emergenza mai vista prima. E dunque, partendo proprio dalla situazione giapponese, oggi il quadro in Europa appunto si ripete con cali ovunque. In realtà stamattina il Nikkei a Tokyo è chiuso positivamente, perché nel fine settimana il governo ha varato un maxi piano di stimolo all'economia. Detto questo, andiamo a Piazza Affari rapidamente con i migliori titoli: Geox più 1,82, Telecom più 1,57, Parmalat e Tenaris in rialzo di un punto stanno rimbalzando i titoli petroliferi, che hanno sofferto molto sulla scia del crollo del prezzo del petrolio la settimana scorsa. Saipem guadagna lo 0,5%. I cali più consistenti invece li hanno Unicredito, meno 4%. Unipol meno 3,92, l'Espresso meno 3,90, Prismian meno 3,83, la ex Autostrade meno 3,70, Finmeccanica meno 3,49. Abbiamo un calo di 3 punti anche per Italcementi, Buzzi Unicem e Monte dei Paschi. Direi che possiamo lasciare tranquillamente la borsa. Stamattina andiamo ad un tema sicuramente più piacevole, più leggero. Oggi si parla a Salvadanaio di vino. In vino veritas, recita il proverbio latino. Ma qual è la verità di un vino? Ad esempio un rosso, ottenuto con uno stesso vitigno, nello stesso territorio, ma dal prezzo magari superiore del 100% rispetto a un fratello che vanta le medesime caratteristiche di origine e può esibire solo un'etichetta diversa di un'azienda confinante. Questo dilemma si ripropone molto spesso al consumatore, in enoteca, al ristorante, nella grande distribuzione. E allora, la prima regola nell'acquisto di un vino con un budget limitato è quella di non cercare subito la marca conosciuta, bensì di individuare il vitigno gradito, il territorio desiderato e indagare tra i concorrenti della bottiglia leader. La disponibilità di vini made in Italy, del resto, è cresciuta enormemente negli ultimi anni. Ci si può dunque concedere un approccio più sperimentale, tenendo comunque presente che ci sono dei limiti di prezzo al di sotto dei quali è sicuramente molto difficile trovare un prodotto di buona qualità. Anche perché tra il costo della bottiglia, il tappo e l'etichetta si raggiunge già una cifra intorno ai 2-3 euro. Comunque sia, la cosa importante è leggere bene l'etichetta, soprattutto la provenienza di un vino e le sigle, IGT, indicazione geografica tipica, DOC e DOCG, denominazione d'origine controllata e garantita, e infine rendersi conto se il vino è imbottigliato all'origine dall'azienda che lo mette sul mercato oppure no. Tra le etichette, anche fino ad 8 euro, ci sono vini meno noti con ottime potenzialità di salire nella hit parade delle guide, dei critici e soprattutto dei consumatori. 800 24 00 24, numero per i vostri interventi. Io vedo già molti ascoltatori che sono pronti a intervenire, così come ci stanno già arrivando anche molti messaggi. Oggi parleremo di questo carburante del corpo che è il vino, ma un altro ascoltatore ci chiede, insomma, ma il petrolio non ci dà l'aggiornamento? Oggi sì, ve lo do, sta a 42,85 dollari al barile a New York, a Londra il Brent quota 44,20. Lasciamo il mercato. Davide Paolini, questa joint venture fra il gastronauta e Salvadanaio funziona perfettamente, perché non ti dico quanti messaggi con indicazioni di vini buoni a prezzo ragionevole ci stanno arrivando al nostro desk. Però io, per quello che riguarda la conversazione con te, partirei subito con questa domanda che in realtà tu ti proponi anche questa mattina sulle Sole 24 Ore. Il prezzo di un vino è un indicatore sempre valido di un buon prodotto? Assolutamente no. Ci sono molti vini che sono sopravvalutati, perché spesso vengono sopravvalutati dalle guide. Basta che una guida o basta che un commentatore, un critico, dia un giudizio strapositivo su un vino, questo sale alle stelle. Il problema è magari che l'anno dopo, siccome questo vino si è già posizionato molto alto per le quotazioni delle guide, non rispecchia poi più la qualità dell'anno precedente, mantiene lo stesso prezzo. E quindi molte volte ci sono dei vini che sono sopravvalutati per questo, in altri casi ci sono vini che sono sopravvalutati per la storia e la tradizione, che giustamente deve essere tenuta in considerazione nel prezzo finale di un vino. Però molte volte c'è anche il decadimento di molte aziende. E poi ci sono i momenti di moda, ci sono stati i momenti di moda di alcuni vini, c'è stato un momento di boom del Morellino, cioè ora c'è il momento di boom del Rosé, e quindi ci sono dei momenti in cui la moda purtroppo fa aggio, così come succede nel design e nella moda stessa. È evidente che quando c'è uno stilista che è così è su tutti i giornali, in questo caso su tutti i giornali vinicoli o su tutta la ristorazione, immediatamente il prezzo cresce. Quindi ci sono tantissimi motivi che portano alla sopravvalutazione di molti vini. Ecco, per quello che riguarda invece il prezzo intorno al quale ruotano i suggerimenti che offre questa mattina la guida e low cost di qualità dedicata appunto al vino, dove bere bene con meno di 8 euro. 8 euro mi sembra un prezzo assolutamente ragionevole per un vino di buona qualità. Ma io credo che già a 5-6 euro in giro per l'Italia si trovano dei vini eccellenti, diciamo non straordinari, ecco, non da Guinness dei primati, però sicuramente si cominciano a trovare dei vini, specialmente questi vini di 5-6 euro, cioè gli outsider. Io chiamo outsider, poi diciamo la lettura del testo che è stata data all'inizio, che è poi quello che ho scritto io. Esattamente, infatti abbiamo sintetizzato la guida, sì. Sì, e devo dire che cioè, la ricerca degli outsider è importante, perché? Perché ci sono dei vini che ancora non hanno, per così dire, quella plomb, non hanno quel fascino di molti altri, che perché magari sono da poco sul mercato, perché sono abbastanza sconosciuti nel mercato nazionale. Esistono e ci sono, ogni anno sicuramente emergono dei vini che poi l'anno dopo fanno il boom. Ecco, io credo che la vera caccia sia questa, prima che il vino diventi famoso, che sia già di qualità e prima che diventi famoso. Ecco, prima di cominciare a sentire i nostri ospiti, tra l'altro saluto, perché è già collegato telefonicamente con noi, Marco Gallone, amministratore delegato di Feudi di San Gregorio, quindi Campania. Dottor Gallone, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere con noi questa mattina. E prima anche di cominciare a sentire i nostri ascoltatori, perché stanno scalpitando, un tema che li ha stimolati moltissimo, ci fa piacere. Volevo leggerti, Davide, magari aiutami anche su un commento su questo. Ovviamente questo è un momento molto delicato in cui si fa una grande battaglia, giustamente, anche pubblica, per la guida sobria, perché i pericoli connessi ad una guida in stato di ebbrezza sono notevoli, non c'è neanche bisogno che stiamo a spendere parole su questo. Però c'è un ascoltatore che dice: per favore, dite che chi beve un bicchiere di buon vino pasteggiando non è un criminale, Davide. Ma io, dunque, questo è un problema molto, molto serio. Io credo che le ultime restrizioni siano esagerate. Io credo che la legge, il regolamento che è già in vigore sia sufficiente. Dobbiamo anche così dire che ci sono dei persone che metabolizzano molto più velocemente di altre. È evidente che è molto difficile andare a vedere il limite che è per ciascuno di noi, questo è evidente, però bisogna bere con la testa. Io dico sempre che bisogna mangiare con la testa e non con la pancia, in questo caso dico che bisogna guidare con la testa e non sulle ali dell'entusiasmo. Fare i conti con la propria capacità di tenuta, punto e basta, infatti. Io credo che ognuno di noi abbia dei limiti di capacità di lucidità. Ecco, io faccio appello a questo, al di là della legge, al di là dei regolamenti che verranno, cioè di fare coscienza della propria lucidità, e questo è fondamentale. Bisogna bere bene e bere poco. Benissimo. Davide, ci presenti la Feudi di San Gregorio, che abbiamo scelto come vino rappresentante del Sud per Salvadanaio questa mattina, poi così cominciamo la nostra chiacchierata con Marco Gallone. Bene, questa è un'azienda che diciamo negli ultimi 10 anni ha fatto una crescita straordinaria, si è imposta veramente sul mercato nazionale e internazionale. È prevalentemente basata sull'aglianico, sulla ricerca di questo, diciamo, lo sviluppo e il miglioramento di questo vitigno, e sta investendo moltissimo anche in ricerca. Questo è un fatto molto positivo in momenti anche di vacche magre. E ovviamente ha un catalogo di vini con prezzi diversi, c'ha dei must in alto, vini che vanno sopra diciamo ai 30 euro abbondantemente in qualche caso, e poi però c'è anche una fascia media, chiamiamolo così, molto interessante. Allora ce li facciamo raccontare. Marco Gallone, eccoci a lei. Che cosa possiamo acquistare presso la sua azienda spendendo meno di 10, meno di 8 euro? Vedo che sulla guida è segnalato il Sannio Falanghina, 8,50 euro. Sì, è esattamente bianco, come ha sintetizzato Davide. Diciamo, Feudi di San Gregorio è un po' un'azienda che si potrebbe definire per il ceto medio, nel senso che ha una gamma di vini che vanno dai 5-6 euro fino anche agli 80-90 euro, quindi è una gamma molto ampia, e al di sotto degli 8 euro possiamo trovare senz'altro la Falanghina segnalata dalla vostra guida, e possiamo trovare come bianco, e possiamo trovare anche un rubrato aglianico, che appunto noi abbiamo puntato molto sull'aglianico, che è questo grande vitigno, forse il più grande vitigno del sud, uva rossa, e questa bottiglia al di sotto degli 8 euro rappresenta l'aglianico nella sua forma più semplice. e immediata. Ecco, c'era un aspetto che ci segnalava prima Davide che ci ha incuriosito, Gallone, cioè il fatto che la vostra cantina segue questo progetto che Davide definisce molto ambizioso, basato sul finanziamento della ricerca nell'enologia per sviluppare, questo è anche un aspetto molto importante per l'economia del Sud, il territorio irpino. Che cosa fate di particolare? Su cosa puntate per quello che riguarda la vostra attività di ricerca? Ma noi stiamo rimappando, se così si può dire, tutti i nostri terreni nei quali coltiviamo, oltre all'aglianico, le tre principali tipologie di uva bianca irpine, che sono il greco di tufo, il fiano di Avellino e la falanghina, e ci siamo concentrati poi sull'aglianico perché questo grande vitigno del sud secondo noi è ancora stato poco approfondito, poco studiato, ha una grandissima variabilità intravarietale, come dicono i tecnici, è un vitigno diffuso in molte regioni del sud e le aree più vocate sono l'Irpinia e il Vulture in Basilicata. Noi abbiamo in Irpinia tantissimi vitigni vecchi, viti vecchissime, che presentano anche delle caratteristiche particolari che vanno studiate e magari riprodotte per non disperdere questo grandioso patrimonio genetico che detiene l'aglianico. Tra l'altro, no, a parte tutto, quello che mi piaceva anche commentare con lei, Gallone, che nonostante il nostro vino sia strarinomato in tutto il mondo e molto conosciuto, vedo che ci sono ancora ampi margini di sviluppo, no? anche sulla base di quello che svolgete voi nella vostra attività, nel vostro vigneto. Beh, direi di sì, perché sfiderei, farei un test e proverei a vedere quanti conoscono l'aglianico, quanti sanno che il Taurasi è fatto con l'aglianico. Il Taurasi è la DOCG irpina ottenuta con uve aglianico. D'altra parte, quando ci interroghiamo su quali siano i più grandi vini rossi italiani, magari si dimentica facilmente l'aglianico, quindi pensiamo che possa avere grandi potenzialità. D'altra parte, ce lo ricordava anche un articolo qualche mese fa dell'Herald Tribune, forse all'estero lo conoscono e lo apprezzano molto più di quanto facciamo noi, infatti, è un po' una caratteristica. Nemo profeta in patria, italiani. Come si dice sempre, infatti. Comincerei anche ad aprire i microfoni ai nostri ascoltatori, che li vedo già pronti con molte considerazioni interessanti. Allora, cominciamo con una donna, Maria da Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Io intanto vi faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie Maria. Volevo solo molto rapidamente segnalare un prodotto che purtroppo non ricade nella fascia degli 8 euro come la guida di cui ho sentito parlare stamattina, però è un prodotto che ricade entro i 10 euro, quindi mi sembra... Ma magari lo troviamo, adesso non è poi così rigido Davide nella ricerca dei prezzi, poi ce lo sentiamo se lo conosce. Qual è Maria? È una Barbera del Monferrato e si chiama Umberta. Me l'hanno regalata degli amici, poi io sono andata a riacquistarmela e poi ho deciso di, siccome io abito a Vercelli e quindi non lontano dalla zona di produzione, ho deciso di cui parleremo anche questa mattina, tra l'altro. Sì. Ah no, sì. No, perché abbiamo Verona, avevamo prima inizialmente un altro ospite che forse... Faccio come se non avessi detto niente, Maria. Quindi insomma lei ha avuto questo colpo di fulmine per Umberta. Sì, ho poi deciso di andare a visitare l'azienda perché effettivamente è a 40 chilometri da dove abito io, per cui e devo dire che mi ha fatto molto piacere, è stata una visita molto significativa perché ho imparato molte cose e questo un po' vorrei segnalarlo agli ascoltatori, che a volte quando c'è la possibilità andare a visitare le aziende è un'esperienza molto istruttiva, soprattutto quando effettivamente si ha l'accesso ai luoghi di produzione, alle vigne e quindi forse poi si capisce anche un po' di più la ragione per cui certi prodotti non è costano possibile un po' acquistare una bottiglia di qualità al di sotto di queste cifre, perché chiaramente c'è tutto un lavoro dietro, infatti, che magari dura anche degli anni. La ringrazio Maria. Davide, Paolini, mi sembrano assolutamente pertinenti le considerazioni della nostra ascoltatrice. Barbera non la conosco, però ci sono tre o quattro barbere messe nella guida, tra cui la Barbera Principe, che è la Barbera Lamonella dell'azienda Braida, quindi ci sono che altre è l'ospite barbere... che ci ha sfumato, ecco perché mi stavo incartando così, lo confesso ai nostri ascoltatori questa mattina. Sì, sì, ecco appunto, c'è la Barbera Lamonella dell'azienda Braida, poi ce ne sono altre, quindi sicuramente la Barbera ha rappresentato perché è un grande vino e si trovano delle grandi barbere a questi livelli. Ecco, no, ma che ne pensi anche di quello che diceva la nostra ascoltatrice? Magari andando a toccare direttamente in azienda quello che significa produrre un determinato vino di una determinata qualità, si può comprendere sicuramente meglio anche il motivo per cui poi magari dietro al banco o di una prestigiosa enoteca o magari anche al supermercato troviamo prezzi che poi superano abbondantemente i 10 euro, Davide. Ma sicuramente bisogna andare a verificare molte volte, anche perché io lo dico sempre, bisogna andare a vedere chi è il produttore e soprattutto sul vino, perché magari si possono avere delle sorprese che non si trovano né botti, non si trovano né fermentini, non si trova niente, si trova semplicemente qualcuno che imbottiglia a destra e a manca. Ecco, questo credo che sicuramente sia un mezzo per toccare con mano specialmente i vini sotto una certa cifra, che è quella più bassa. Poi Davide, c'è anche tutta la sfera legata in ogni caso al gusto personale, voglio dire, magari per me vale la pena spendere una certa cifra per un certo vino perché al mio palato risulta straordinario e un'altra persona non ci spenderebbe neanche un euro. Guarda, io ho chiuso l'articolo che dovrebbe essere uscito stamattina, ancora non l'ho visto, sul Sole 24 Ore, che dice che uno dei più grandi enologi al mondo, Peinot, francese, ha scritto che la qualità di un vino dipende dalla qualità di un degustatore, e siccome la qualità del degustatore, puntini puntini, vuol dire che non esiste, ti ho già concluso. Io sono sempre sul gusto soggettivo e mai sul gusto oggettivo. Rivendichiamo l'autonomia delle papille gustative, insomma. Davide. Scusa, è evidente che ci sono dei difetti nel vino, cioè molte volte quando ci sono dei difetti, allora a quel punto sicuramente il gusto soggettivo va a farsi benedire, cioè nel senso che se senti dei difetti, sono dei difetti anche se ti piace un vino. Infatti, comunque, poi ovviamente poi questi giudizi sono giudizi che possono essere attribuiti comunque da un massimo esperto, io per esempio non credo che potrei arrivare ad una qualità di giudizio di questo tipo. Salva Danaio. Di nuovo ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina si parla di vino grazie anche all'ultima guida, il low cost di qualità in uscita con il Sole 24 Ore. Oggi parliamo appunto di vino, quello che metteremo anche sulle nostre tavole in occasione delle feste di Natale e Capodanno, ma quelle che magari abitualmente mettiamo sulla nostra tavola se siamo degli appassionati, ricercatori anche di vino di buona qualità a prezzo ragionevole. Le indicazioni che oggi sono sulla guida sono per un vino diciamo a prezzo inferiore agli 8 euro. Assolutamente un prezzo che ci può portare ad acquistare prodotti di totale qualità, come ci spiegava prima il nostro gastronauta Davide Paolini. Vorrei però salutare, perché poi andremo avanti con altre cantine, Marco Gallone della Feudi di San Gregorio. Dottor Gallone, magari un saluto di Natale, ma le voleva leggere anche un messaggio per lei. Il loro double è quasi spettacolare, ci scrive Chris, però questo non è un vino, uno spumante se non sbaglio. È uno spumante ottenuto da uve rigorosamente indigene, autoctone, uve irpine che noi stiamo facendo con ormai un mito dello champagne che è Anselm Selosso. E quindi non ci siamo proprio con gli 8 euro. Perché non è assolutamente un'imitazione dello champagne, ma è uno spumante nostro, tutto italiano. E quanto costa, glielo può dire? Degli 8 euro. È un Dottor Gallone, grazie per essere stato con noi, buone feste naturalmente. Altrettanto, grazie. E intanto a voi. Ci ha raggiunto Andrea Muccioli, responsabile della comunità di San Patrignano. Siamo molto contenti di averlo qui con noi. Muccioli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, come vi siete cimentati nell'ambito della comunità con la produzione di vino? Da quanto tempo portate avanti questa attività? E mi sembra, tra l'altro, adesso al di là del prezzo di cui poi parleremo, del vostro Aulente Rosso e Aulente Bianco, è stata un'attività di successo? Come siete arrivati anche a produrre vino di qualità? Ah, intanto San Patrignano è nata su delle vigne. All'inizio le vigne servivano per produrre il vino che noi bevevamo in comunità, perché noi tutti i ragazzi hanno la possibilità di bere un bicchiere di vino a pasto, imparando così a gestire anche questa bevanda in maniera responsabile. E poi dall'inizio degli anni 80, 80-85 abbiamo iniziato a imbottigliarlo per la vendita. Un vero progetto di qualità però è cominciato veramente a partire dall'inizio degli anni 90. Ecco, credo anche, seguendo un po' la sua passione, se non ho letto male dalla guida, un'attività progettata e tenacemente sviluppata da Andrea Muccioli. Con 8 euro cosa possiamo acquistare presso la vostra attività, Muccioli? Aulente Bianco e Aulente Rosso sono i vini di ingresso, diciamo, nella prima fascia del mercato, e escono dalla comunità a 4,90 euro più IVA. Quindi, insomma, C'è un margine. Si trovano in enoteca attorno a quel prezzo, diciamo, giustamente. Attorno al prezzo che lei dice. Davide Paolini, la zona tra l'altro di produzione dell'Aulente Rosso e Aulente Bianco, che è quello a cui ci riferiamo in questo momento, è una zona che però produce anche altri vini di ottima qualità, sui quali possiamo ragionare sempre intorno a questo prezzo? Bah, sì, la Romagna ha altri vini diciamo su quei prezzi, però devo dire che questo Aulente Rosso, Aulente Bianco veramente sono rispetto al prezzo una grandissima sorpresa, e perché veramente sono vini validissimi. Tra l'altro credo, non so se Muccioli lo può confermare, credo che abbiano un grande successo anche all'estero questi due vini, proprio in vista del rapporto qualità-prezzo. Lo possiamo chiedere, Andrea Muccioli? Beh sì, stanno avendo un grande successo in un po' in tutti i mercati, e devo dire che c'è questa grande bevibilità unita a uno spessore, a una pulizia che non è facile da trovare per questa fascia di prezzo. Noi abbiamo iniziato con 10.000 bottiglie di questo vino, il rosso, circa 7-8 anni fa, abbiamo cominciato a dover sempre raddoppiare la produzione. Oggi siamo arrivati a quasi 200.000 bottiglie di Aulente Rosso e 50.000 di bianco, grazie, è bene dirlo, alla produzione che intanto aumenta nei nostri vigneti, perché siamo partiti da 20 ettari, adesso siamo a 110 di ettari di vigneto, tutti dentro San Patrignano, tutti con degli impianti veramente straordinariamente vocati. Quanti ragazzi qualità. Impiegate nella produzione, Muccioli? Ma stabilmente impegnati in un percorso di formazione professionale su vigne e vigneti ci sono circa 50 ragazzi, però devo dire che il vino, la vigna, la vendemmia in particolare è proprio un rito collettivo, ricorda forse vedere la nostra vendemmia fa venire in mente a tempi arcaici in cui intere collettività rurali partecipavano a questo momento, ci siamo anche 200-300-400 persone a vendemmiare ed è veramente una festa per tutti, che poi celebriamo con una grande festa romagnola con canti, balli e sano vino buono di fronte alla nostra cantina. Spirito d'allegria, insomma, che inevitabilmente credo si debba coniugare proprio anche all'utilizzo, non solo alla produzione del vino. Ci autoinvitiamo a venirvi a trovare, Andrea. Allora, ci aspetti un attimo, sentiamo qualche considerazione invece sempre a proposito di vini di qualità a prezzi ragionevoli di alcuni nostri ascoltatori. Massimo da Varese, che attende da un po'. Massimo, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ci dica tutto. Ecco, la mia domanda era questa: di fronte alla vasta gamma di offerte che si trovano recentemente nei supermercati di vini di tutti i tipi, anche sotto i 5 euro, la scelta e la ricerca dell'etichetta di OCG può essere un primo criterio per trovare dei vini che siano di buona qualità, sufficientemente di buona qualità? Una prima selezione, insomma. Massimo, la ringrazio. Davide Paolini. Beh, è un buon parametro di ricerca questo? Beh, sì, sicuramente gli IGT, non solo le DOCG, gli IGT, le DOC e le DOGG danno un qualcosa in più, però sicuramente ci sono anche i vini che sono fuori e che potrebbero offrire della qualità. È evidente che la prima scelta deve andare su questo tipo di caratteristiche, anche perché c'è un'etichetta che documenta anche dei controlli. Devo dire che dopo le ultime vicende, e qui non voglio fare molte polemiche, che sono successe in questo paese, vuol dire che molti consorzi contano come il fante di coppe, e chiudo questa parentesi, però sicuramente diciamo che può essere una prima scelta sicuramente. Io ho sempre detto che bisogna, più che andare sulle scelte di OCG, DOC, sì, bisogna partire da questo, ma soprattutto pensando a delle proprie caratteristiche. Va bene, uno ama i rossi, allora comincia già a dare una prima scelta, poi ama dei rossi particolari, non lo so, molto, molto, molto robusti, e allora va su certe regioni e su certi vitigni. Oppure uno ama i bianchi fruttati, oppure ama dei bianchi profumati o d'altro, va su altre aree. Poi comincia dalla DOCG, dalla DOC e dall'altro. Io credo che questo possa essere un primo criterio. Devo dire che non è assoluto, perché come ho detto prima ci sono esperienze in questo paese di consorzi, insomma, che non hanno funzionato al 100%. Sul Sole 24 Ore di questa mattina tu indichi anche un'altra cosa, Davide. Ci sono dei limiti, e credo che tu ti riferisca al prezzo, sotto i quali i rischi di una bufala sono certi. Quali sono? Beh, sai, io ho visto dei vini nei supermercati a 0,90, 0,89, io devo dire sì, tutto è possibile nella vita, però insomma 0,89, se uno comincia a calcolare il prezzo della bottiglia, il prezzo dell'etichetta, anche se magari non si va da un design ma si fa in casa, il prezzo del tappo, insomma vuol dire proprio che o quella cantina è presa veramente per il collo, e in questo periodo può anche succedere, per carità, visto i tempi che corrono, ma insomma certi limiti. Io direi che io un vino... Non vanno bene neanche per cucinare, banalmente, Davide? Ma attenzione, ecco, questo è un errore che si commette molto nelle case. Cioè non si può cucinare con vini mediocri o vini magari che sono, per così dire, nelle case si dice andati a mare quando sono maderizzati o d'altro. Per cucinare ci vuole il vino migliore. Quindi è vero che molte volte si trova in certi locali brasato al Barolo e poi magari dentro si fa con altre tipologie di vino, sicuramente non con il Barolo, visto i costi anche medi di ogni singola bottiglia di Barolo, però il vino deve essere perfetto, se no questo si ripercuote sul cibo. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi sul tema che abbiamo curiosamente scelto per Salvadanaio questa mattina, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Prima di salutare ancora un paio di considerazioni con Andrea Muccioli, Comunità di San Patrignano. Il vostro vino, l'Aulente Rosso, l'Aulente Bianco, ma anche tutti gli altri, li vendete direttamente anche presso la vostra comunità o li troviamo solo nelle enoteche o nei negozi, Andrea? No, anche nella nostra comunità è possibile venire ad acquistarli. Tra l'altro abbiamo aperto proprio un negozio molto recentemente dove vendiamo non solo tutto l'agroalimentare, vini inclusi, prodotti della comunità, ma anche tutti gli altri oggetti, l'oggettistica, i mobili, tutte le cose che produciamo. Proprio per è un percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa, questo, perché ci siamo resi conto che non bastava fare il bene, no? Accogliendo ragazzi e aiutandoli a recuperarsi, bisognava lasciare che le persone entrassero, toccassero con mano e capissero tutto il valore immenso e straordinario che i ragazzi sono in grado di esprimere. Per questo abbiamo anche aperto, tra l'altro, un ristorante molto recentemente che sta avendo un grande successo, e ci piace, insomma, l'idea di accogliere in casa nostra in forme, come dire, più conviviali, più leggere, senza dover fare le solite considerazioni sociali di quanto male c'è nel mondo e del pericolo della droga, sì, eccetera. Infatti. Persone che pur tuttavia, quando portano via il vino o qualche altra cosa da noi, si portano dietro anche un messaggio, secondo me, estremamente importante. Ma infatti, Andrea ha ragione. Che cosa state preparando per Natale? Così concludiamo anche questo secondo blocco di Salvadanaio, magari con l'attività della comunità di San Patrignano. Beh, ci stiamo preparando al Natale, essendo San Patrignano, è vero, una realtà molto eterogenea, nel senso che ha tantissimi ragazzi che vengono da ogni zona d'Italia e anche da altre parti del mondo, però, viva Dio, siamo in Romagna, nasce dall'allargamento di una famiglia romagnola, la mia, questa comunità, e quindi facciamo svariate migliaia di cappelletti tutti a mano, rigorosamente a mano, e poi il lesso, e forse le anche gli spiedini grigliati che Davide Paolini questa mattina mette insieme al vostro Aulente Rosso come accompagnamento ideale, mi pare di capire. Andrea, grazie molte per essere stato con noi, buone feste e buon Natale a lei e a tutti i suoi ragazzi. Grazie a tutti voi, un saluto al caro amico Davide e a tutti gli ascoltatori. Salvadanaio. Ci ritrovati al tema che Salvadanaio ha scelto di affrontare questa mattina, grazie anche alla guida Il Vino, il low cost di qualità, che c'è stamattina con Il Sole 24 Ore, come e dove, anzi dove bere bene con meno di 8 euro. Antonio dalla provincia di Pistoia, benvenuto. Buongiorno, Antonio. Auguri per le prossime feste, saluto a tutti. Grazie molte anche a lei. Niente, ma spingo a telefonare perché proprio ieri, facendo un giro per il supermercato per voler acquistare proprio il vino da consumare per le prossime feste in famiglia, niente, ho notato che ci sono questi vini addirittura, come diceva Davide poco fa, a poco prezzo, a €1, €1,50, €1,60, ma €2 quello da 5 litri, delle note marche anche, ora non sto a dirle. Voglio dire, mi domandavo adesso, ma siamo certi che quello è vino e non sia acqua annacquato con qualche sostanza? Perché non ci sta, se un buon vino deve essere 8-5 euro, questo, facendo un po' il calcolo, veniva intorno a €1,60, €2 al massimo, insomma, ecco. Antonio, dirò subito la sua considerazione a Davide Paolini e ne metto insieme anche un'altra. Mi stavo chiedendo se alla luce di questo tema di continuiamo a parlare, Davide, il tema della crisi economica attuale, anche l'industria vitivinicola in qualche maniera in questo momento sia venuta incontro alle esigenze dei consumatori che si sono fatte un po' più, come dire, più alte e i bilanci sono sempre più corti però. Ma sai, il problema è che i consumi stanno toccando tutti, è evidente che toccando la ristorazione indirettamente toccano anche la produzione di vino. Io credo che finite queste feste, diciamo che nei prossimi 3 mesi sicuramente il consumo di vino, già che è ridotto a 48 litri pro capite in Italia, io credo che nel 2009 sia destinato ancora a scendere di qualcosa. Però sono sempre più convinto che non è che la moneta cattiva scaccia quella buona nel fatto del vino. Io credo invece che la qualità alla fine finisce poi per pagare. Per, diciamo, la domanda del signore Toscano, devo dire? Io, cioè, le vedo anch'io queste bottiglie, probabilmente le vedono anche i NAS e quindi le vedono anche chi controlla. Io credo che, diciamo, che non ci sia niente, non ci possa essere niente che tocca la salute, almeno lo spero. Però certo che quei prezzi, o come dicevo prima, sono prezzi di chi ha le cantine piene e in qualche maniera deve smaltire. E poi non dimentichiamo che i supermercati su questo fanno dei giochi con i prodotti civetta per attirare la gente, quindi il vino potrebbe essere in questi mesi un prodotto civetta. Non solo, i supermercati impongono anche il prezzo molte volte a certi produttori di vino che hanno grandi quantità, quindi diciamo in questa logica ci rientra anche questo. Però sai, un euro veramente, bisogna veramente che siano veramente tirati, insomma, per fare questo prezzo. 2 euro, 5 litri addirittura, cioè mi sembra veramente una roba incredibile. Insomma, una cosa su cui esprimere un po' di perplessità. Potrebbero essere in bag in box, credo, forse il radioascoltatore non ha detto questo. Forse sono in bag in box. Che cosa cambia? In bag in box il costo sicuramente è minore, imbottigliamento e tutto il resto, quindi però cioè 2 euro 5 litri non giustifica neanche se questo. Devo dare un parere, io non lo comprerei. Riccardo Pasqua, amministratore dell'azienda di questa azienda veronese che porta il suo stesso cognome, Pasqua, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa troviamo presso la sua azienda sotto gli 8 euro? Mi pare, anzi lo dico già, va, la guida del Sole 24 Ore suggerisce il Valpolicella Classico Villa Borghetti. Sì, io devo dire che abbiamo tagliato, diciamo, tutta la gamma della nostra azienda su questo concetto, ossia noi vogliamo, come dicono sempre i nostri clienti inglesi, dare over delivery, dare valore aggiunto al consumatore. Quindi, ne avete molti, Riccardo? Ma io direi quasi tutti, escluso l'amarone e il ripasso, che sono le punte di diamante della nostra produzione, che rispondono anche a dei disciplinari molto rigidi. Quindi a parte l'amarone, che a marchio Pasqua, delle tenute Villa Borghetti come quello citato nella guida si trova intorno ai 25 euro, il ripasso intorno ai 9 euro, gli altri vini sono entro gli 8 euro al consumatore. Quindi entro questo prezzo si può produrre assolutamente un vino di qualità. Lei sentiva quello che stavamo dicendo anche a proposito della considerazione lanciata dal nostro ascoltatore precedente. Andando al di sotto di un certo prezzo, Davide Paolini suggerisce di stare lontano. Lei che cosa pensa di questa concorrenza fatta su... È chiaro che è una concorrenza che non ha nulla a che fare poi con la concorrenza nell'ambito qualitativo, però di fatto questi prodotti sui supermercati non li troviamo. Come la vedete voi produttori? Cioè questi prezzi super stressati sono la somma di una serie di cose. Prima di tutto, prima parlavamo di DOC, GT, DOCG, questi vini qui sono sicuramente vini da tavola, come non tutti sanno, le disciplinari obbligano anche una certa resa a ettaro, quindi il vino da tavola per definizione non ha limiti e quindi si possono ottenere delle rese molto maggiori a ettaro e quindi diminuire il costo al litro del vino e quindi l'incidenza sulla bottiglia. Più sicuramente, come diceva giustamente Davide Paolini, il gioco che fanno le catene, cioè anche le catene devono raggiungere il loro budget, sanno che in questo momento possono spingere e magari schiacciano i loro margini pur di fare girare i prodotti. Un po' il vino cinese a casa nostra, va, mi sento anche di lanciare questa provocazione un po' folcloristica che lascerei però subito per dare posto ad Alessandro da Torino che è in linea con noi. Alessandro, benvenuto. Oh, buongiorno a tutti, saluto tutti quanti, soprattutto Davide che ascolto sempre molto volentieri. Il salvadanaio no, Alessandro? Adesso mi sì, offendo. Beh, diciamo nella pausa di lavoro mi riesce, invece Davide il sabato mattina è un po' più facile. In orari più praticabili, grazie Alessandro. Beh, anche, comunque, perché fa venire l'appetito ovviamente. E infatti, anche perché non c'è proprio per niente concorrenza, come vede, riusciamo a creare anche delle interessantissime collaborazioni. Alessandro, ci dica la sua considerazione sul vino di qualità e il prezzo. Allora, io sono un appassionato di vino, non sono sommelier, non sono particolarmente intenditore, però diciamo che lo bevo sempre molto volentieri e negli anni mi sono reso conto che effettivamente il vino buono, secondo me, soprattutto se si è dei grandi nomi, si è bene o male sempre in grado di farlo. Tra l'altro, non so se conoscete quel film che in Italia è passato poco, che si chiama Mondovino e che fa capire che effettivamente il vino buono, anche le grandi marche, si vogliono, quantomeno per mantenere la clientela, per mantenere una certa costanza di qualità, riescono sempre a farlo. E allora in questi ultimi tempi mi è capitato di cercare il vino genuino, o almeno quello che secondo me, che a me sembra che sia il vino genuino, quindi un vino che fa sentire la stagionalità, che effettivamente un anno è meglio dell'altro o peggio dell'altro e che incidentalmente generalmente costa anche poco, perché tendenzialmente sono dei piccoli produttori, gente che lo fa un po' con una volta o gente che è tornata a farlo con una volta, con tutti i rischi del mestiere ovviamente, quindi che anche a volte accetta di ridurre il guadagno. Quindi questo vino genuino di cui lei parla, Alessandro, lo ha trovato in vendita anche a quanto? Ai prezzi di cui stiamo parlando questa mattina o costa comunque un po' di più? Sicuramente. Ecco, per essere sincero devo dire che sono vini che tendenzialmente vado a cercare dal produttore, però io immagino che se una bottiglia la compro dal produttore a 3 euro, 3,5 euro, e io conosco il produttore, magari faccio anche un giro della cantina e vedo più o meno, mi faccio un'idea, poi è chiaro, io non sono lì quando lui fa il vino, questo è evidente, però mi faccio l'idea che in enoteca, ma questo lo so perché so che alcune enoteche locali lo vendono intorno ai 7, 6, 7, 8, forse 10, ma Alessandro, non credo che ci arrivino. Alessandro, giro la considerazione a Davide Paolini, alla quale ne aggiungo un'altra. Quanto conta l'annata? Dunque, innanzitutto è difficile trovare che un vino sia uguale nelle annate a venire, insomma, è quasi impossibile. Sì, ci sono molti che hanno, diciamo, lo stile di cantina che ogni anno portano sul vino, ma ogni vendemmia purtroppo è diversa. La natura è l'unica cosa che non si può controllare, anzi il vino veramente è incontrollabile da questo punto di vista. Tu dici purtroppo è diversa, non è anche a volte una come dire, un vantaggio, una fortuna? No, comunque a volte è una fortuna, però cioè, non dimentichiamo questo, che ci sono molti produttori, e qui io voglio lanciare una freccia a favore anche di vini che vanno ovviamente sopra a certi livelli, 30-40 euro, che ci sono moltissimi produttori molto seri su queste fasce di livello, diciamo cantine molto note e ormai riconosciute per la qualità, che rinunciano all'annata, mentre è evidente che ci sono molti piccoli produttori che sicuramente, che magari vendono il vino direttamente in azienda, questo non lo fanno, e questo pesa alla fine l'incidenza, come pesa l'incidenza finanziaria su chi ha delle riserve che deve invecchiare 4 anni, quindi sicuramente bisogna mettere anche questo sul conto. Questa è, diciamo, un libro, una guida sotto gli 8 euro, però attenzione, cioè sopra ci sono anche così delle considerazioni su certi livelli di prezzo che vanno fatte, e non bisogna accusare molte volte certi produttori che certi vini è squilibrato il prezzo. Qualche volta lo è, qualche volta non lo è, anche da questo tipo di considerazioni. Come per tutte le cose. Davide, non riesco a far intervenire l'ultimo ascoltatore, però proprio per non mandarlo via, avendogli fatto perdere tutto questo tempo, ti sintetizzo io la domanda che ci avrebbe voluto rivolgere. Lui acquista vino in Damigiana, poi lo imbottiglia. Ti sembra una buona idea anche per risparmiare? Ma sì, molta gente lo fa, bisogna stare molto attenti che sia un vino stabilizzato, nel senso che quando poi durante il viaggio non cambi il sapore in bocca, però stando attenti a tutta una serie di regole, anche alle bottiglie dove si va a imbottigliare, che siano sicuramente sterilizzate o d'altro, questo è possibile, è una passione che molti hanno e perché no, continuano pure a farlo, perché è un modo per andare in campagna, andare a trovare direttamente il produttore e vedere come produce. Per carità, io credo che anche questa sia una cosa sicuramente fattibile e che alla fine... Fatta con criterio, come per tutte le cose, certo. Grazie Davide per essere stato con noi, ti auguro un buon Natale. Buon Natale a tutti i radioascoltatori di Salvadanaio. Esatto, sperando di poter riproporre di nuovo questo connubio che è stato assolutamente felice, sia lunedì scorso che in questa occasione. Ringrazio anche Riccardo Pasqua, che è stato con noi per quest'ultimo quarto d'ora, amministratore appunto dell'azienda veronese Pasqua. Noi dobbiamo salutarci perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Domani, per l'ultima puntata di Salvadanaio, prima del Natale, saremo ancora insieme. Per adesso, buona giornata a tutti.